4 mattino. I reagenti non li comprano perché se si mettono a fare tamponi a tappeto e si scopre quanta gente è infettata, intanto cade il castello di questa malattia gravissima, perché poi si fa rapporto con le vittime, però con il vero numero reale dei contagiati, e in più chiuderebbero le regioni immediatamente di nuovo. Ma continuate a parlare di burocrazia, lacci, lacciuoli, è per questo che il paese è bloccato. Ma vi chiedete per quale motivo c'è così tanta burocrazia nel nostro paese? La burocrazia è proporzionata a quanto il paese è corrotto. Quando si parlava di questa iniezione di liquidità di 200 miliardi, che cosa significa iniezione di liquidità? Significa che i soldi arrivano diretti alle imprese, e poi si scopre che chi doveva garantire questi 200 miliardi, la SACE di Cassa Depositi e Prestiti, poteva esporsi facendo leva massimo per una sessantina di miliardi. Cioè, si scopre quindi che sono state dette una serie di incongruenze, incorrettezze. Qualcuno potrebbe anche arrabbiarsi con il governo, e ha tutto il diritto di farlo. Su quest'ultimo punto, il punto del decreto liquidità, l'ascoltatore sa bene che ne abbiamo parlato l'altro giorno con il viceministro Misiani lunedì mattina. Anzi, se vuole andare a riascoltare l'intervista, c'è ovviamente il podcast. Il tema gliel'abbiamo sottoposto, cioè gli abbiamo sottoposto il perché non si sia partiti immediatamente, come è stato fatto in altri paesi, con iniezioni di denaro fresco nelle casse delle aziende, come si sta pensando invece di fare adesso con il decreto rilancio. Insomma, far partire un meccanismo più semplice per dare respiro alle aziende, invece di prevedere questo complicato passaggio bancario con un sistema di garanzie ancora più complicato. In quel momento probabilmente sarebbero dovuto fare delle cose semplici. Certo, la situazione italiana di bilancio è diversa da quella tedesca, francese e via dicendo, però forse ci si poteva ragionare, visto che adesso ci si sta ragionando con il decreto rilancio, no? Il tema della burocrazia, della corruzione, sì, in parte questo, sì, probabilmente c'è anche un elemento che ha a che fare con la corruzione, come dice il nostro ascoltatore, ma in parte, a mio modo di vedere, è una questione di potere, di assetti consolidati, di mantenimento delle posizioni da parte di certi livelli burocratici, che per mantenere le mani su quella che è la redazione e l'applicazione della legge mantengono appunto questi famosi lacci e lacciuoli, perché consentono a un pezzo della nostra burocrazia, lo abbiamo raccontato spesso, di fatto mantenere il potere. Qualsiasi governo nazionale, regionale o locale arrivi al potere, e questo permette ai tecnici che hanno in mano le leve di tutto questo, le leve normative che sono di fatto la conoscenza, di mantenere il potere. La questione dei reagenti, io non so se sia come dice l'ascoltatore, che non vogliono trovare i reagenti perché non vogliono scoprire la verità sui numeri. Quello che posso dire è che sui numeri, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, si è fatto un casino inenarrabile, ok? Non abbiamo chiarezza di quanti siano i contagiati, ma non abbiamo chiarezza nemmeno di quanti siano effettivamente le vittime, perché per esempio tutti quelli delle RSA li stanno iniziando a conteggiare adesso, e quindi non lo sappiamo. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:21 minuti e 37 secondi ed è la parte dedicata alla rassegna stampa in questo mercoledì 13 maggio, con le prime pagine dei quotidiani che sono dedicate al decreto rilancio. C'è il tema dello scontro con il governo che, come avete all'interno della maggioranza e come avete sentito anche in GR24, come vi abbiamo detto poco fa, pare che si sia ricomposto, si sia arrivati ad un accordo sulla questione dei migranti, e però il tema del decreto rilancio resta in piedi con tutti i suoi contenuti, tutte le sue ipotesi, con le questioni che hanno a che fare appunto con la politica interna da una parte, e l'altro fronte, se vogliamo, quello del quale si dibatte in queste ore, che torneremo a trattare alle 8:20, anche con Maria Latella e con i nostri ospiti, non solo di quello parleremo naturalmente, però parleremo anche di quello, è il turismo, i ristoranti, le spiagge, come si riapre, questo distanziamento sociale richiesto che rischia di creare molti problemi e addirittura di portare molte aziende, che sono già in difficoltà adesso, alla chiusura. I titoli sono in gran parte dedicati al decreto, a partire dal Sole 24 Ore che piuttosto freddamente titola decreto, ultimi scontri su cassa integrazione e migranti, all'interno ci sono tutte le novità in arrivo, e con il Sole 24 Ore tra l'altro oggi c'è in allegato con 50 centesimi in più una guida casa, mutui, affitti e bonus fiscali, gli effetti del coronavirus su regole e mercati. L'apertura del Sole 24 Ore sul decreto, così come lo è quella per esempio del Messaggero, decreto, la sfida Conte Movimento 5 Stelle, lo è per La Stampa, Conte, non c'è intesa sui migranti, Repubblica, aiuti, l'Italia aspetta, Corriere della Sera, le liti frenano il decreto, Il Fatto Quotidiano, rilancio fermo, ora piantatela, rivolto ai partiti politici e alle liti, il decreto del domani è il titolo di Avvenire, mentre La Verità si dedica alla questione dei comuni, ne abbiamo parlato prima, alle 6:30, Conte sta facendo saltare i comuni, buco da 7 miliardi per i mancati introiti dovuti alla serrata. Si dedica proprio al turismo, alla ristorazione, alle regole, il quotidiano nazionale, bar, ristoranti, negozi, ecco le regole, tutte le prescrizioni che devono seguire gestori e clienti, fioccano le polemiche, così riaprire non conviene. Il Manifesto, l'apertura invece la dedica alla vicenda di una nave, la nave Lazzaretto per gli anziani di Trieste malati di Covid, che era stata promessa dal presidente della regione Fedriga, in un vicolo cieco. Le opposizioni cantano vittoria e dicono che non si farà. Il titolo è Affondato. Il Giornale torna sulla vicenda di Silvia Romano, la Jihad ringrazia Silvia e l'Italia, il capo di Al-Shabaab, con i vostri soldi compriamo le armi, ne abbiamo parlato ieri, lo ricorderete in rassegna, abbiamo letto l'intervista realizzata col portavoce di Al-Shabaab dal quotidiano La Repubblica. E Libero titola invece su Guadagnano solo i criminali per la retata di mafiosi e di usurai che c'è stata ieri da Palermo a Milano, la Guardia di Finanza ha arrestato 91 appunto tra boss ed estorsori. Veniamo oggi, consentitemi, in apertura di questa rassegna, invece di andare su un caso particolare, casi particolari e storie laterali sulle quali arriveremo tra un attimo, di aprire invece con quello che mi ha veramente colpito, perché è un tema di dibattito che forse a questo punto si può aprire o forse è destinato ad aprirsi, e su questo forse anche la vostra opinione, anzi non forse, sicuramente la vostra opinione è interessante e mi piacerebbe sentirla. E partiamo dunque in modo diverso dal solito dal quotidiano Il Foglio, da un pezzo di David Carretta, il cui titolo già in parte ci dice di cosa si parla. Contro la dittatura della precauzione. Convivere col virus o smettere di vivere per il virus? Una provocazione. Dal mese di marzo decine di migliaia di persone in Europa muoiono senza che un marito, una moglie o un figlio possa tenere loro la mano. Migliaia di malati di tumore non possono più proseguire le cure contro il cancro. Migliaia di donne vengono picchiate in casa senza poter sfuggire alle botte almeno durante l'orario di lavoro. Milioni di persone abusano di alcol e droghe per compensare la fatica dello smart working, quella di supplire alla scuola per istruire i figli e quella della clausura sociale. Milioni di bambini sono privati del diritto fondamentale all'istruzione e di quello alla luce del sole. Milioni di persone hanno perso il lavoro e altri milioni lo perderanno nei prossimi mesi. Questi sono solo alcuni degli effetti dell'isolamento generale della popolazione. È la politica scelta da gran parte dei paesi dell'Unione Europea per fronteggiare il coronavirus ed evitare il rischio di centinaia di migliaia di morti, forse milioni. Ma quanti morti in più non si sono calcolati per non correre il rischio? È la domanda che si pone David Carretta, che prosegue. Il Covid-19 prevale su tutti gli altri rischi economici, sanitari, sociali, collettivi e individuali, di medio e lungo periodo, anche se da sempre esistono altri rischi che non hanno mai portato a grandi cambiamenti. L'esempio più semplice è quello degli incidenti stradali, che pure tantissimi non hanno mai frenato la vendita o l'utilizzo delle automobili. E così il principio di precauzione prevale anche sul rischio di ribaltare la cultura della vita. Rifiutando la possibilità della morte per il virus, ci facciamo dominare da una paura mortifera e rinunciamo a vivere umanamente. Insomma, è forse solo una provocazione quella di David Carretta, come si legge appunto nella prima pagina del Foglio, però è uno spunto di riflessione interessante. Insomma, è giusto o non è giusto? Una clausura che sta portando soldi nelle casse dello Stato, questa clausura. Ce lo racconta Paolo Bracalini sul Giornale a pagina 19, che ha fatto qualche conto. Perché? Perché gli italiani sono stati bravi, hanno rispettato le norme, lo abbiamo raccontato, e però i multati ci sono e le multe portano soldi appunto nelle casse dello Stato. Le multe fruttano 150 milioni, ci racconta Paolo Bracalini. Il governo trasforma l'Italia in uno stato di polizia, record di verbali, sanzionate 436.000 persone. Il governo ha messo in campo un apparato di mezzi e agenti mai visto prima, dice Bracalini. Elicotteri, droni, satelliti, posti di blocco, agenti in borghese, volanti sguinzagliati ovunque, fuori strada per pattugliare le spiagge, forze aeronavali all'opera per catturare chi si fa un giro in canoa. Se si dispiegasse questo esercito per contrastare la delinquenza, l'Italia sarebbe probabilmente il paese più sicuro al mondo, scrive Bracalini. E fa un po' di calcoli, insomma, mette insieme i numeri partendo da una multa media di 400 euro. Se si paga entro 30 giorni si ha uno sconto e la sanzione diventa di 280 euro, calcolando la sanzione standard di 800 euro, cioè non l'importo più alto ma neppure quello ridotto, e aggiungendo le sanzioni da 200 euro per le denunce, viene fuori un incasso totale già di tutto rispetto, circa 150 milioni di euro. Certo, ci saranno molti che cercheranno di non pagarle, faranno ricorso, e già diversi studi legali hanno proposto le class action per farle annullare, ma parliamo solo delle sanzioni fatte finora. C'è ancora tutta la fase 2 da multare. Ci sono i bar e i ristoranti con le assurde regole di distanziamento dei tavoli, quelle per chi va in spiaggia. Si prevede, insomma, un'estate povera per gli italiani, ma molto ricca di verbali. E a chi vanno questi soldi? Beh, in parte allo Stato. E in parte, ovviamente, se si viola una qualsiasi di quelle ordinanze, questa giungla di ordinanze regionali, comunali, che sono state varate in questi mesi, in queste settimane, beh, una parte degli incassi vanno anche naturalmente a comuni e regioni. Dal territorio abbiamo la storia del Molise, la storia del Molise, che è quella che sta facendo discutere di più in questo momento, perché il Molise, che poteva vantare un tasso di contagi molto basso, cosa succede? Si ritrova con un funerale non autorizzato che fa riesplodere appunto i casi di contagio. Il 30 aprile, racconta sul Corriere della Sera, pagina 13, Cesare Zapperi, un corteo funebre non autorizzato con qualche decina di persone di troppo. L'altro giorno un'irruzione di 4 persone all'ospedale Cardarelli, violando tutti i divieti per portare i panni puliti a un parente dopo aver girovagato per 3 reparti. In mezzo, nel giro di meno di 2 settimane, l'insorgere di un focolaio di Covid-19 che vede positivi già 73 componenti della comunità Rom di Campobasso e altri 70 in attesa del risultato del tampone. Ma non si esclude, data l'alta velocità con la quale si è diffuso il contagio, che vi possano essere in circolazione altri soggetti potenzialmente pericolosi. Preoccupato il sindaco Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle, in un clima che nella città molisana rischia di farsi pesante. Quel che è successo il 30 aprile ha lasciato sconcertati. E la gente ha ragione, dice il sindaco. Non era stato autorizzato né il funerale né un corteo. La questura però aveva saputo che c'era l'intenzione di radunarsi e aveva anche messo un ordine di servizio coinvolgendo poliziotti e carabinieri perché controllassero e disperdessero eventuali raduni. E però appunto l'assembramento c'è stato. Voglio evitare la ghettizzazione di una comunità che, a parte qualche soggetto, è abbastanza integrata, dice il sindaco. Oh, vivono tutti in appartamenti, non esiste un campo rom, ma dall'altro devo tutelare i cittadini che rispettano le regole e che sono preoccupati per questi comportamenti che rischiano di mettere in pericolo la salute di tutti. E quindi, in una regione già poco popolata e quindi con numeri bassi, ovviamente esplodono i numeri dei contagi grazie a questa settantina di persone che potrebbero diventare 140 che sono appunto... che si sono contagiate in questo funerale. Ultime due questioni, sempre dalle regioni, visto che ci rimaniamo, e sono delle segnalazioni molto rapide che vi voglio dare, visto che siamo in chiusura di questa parte. Pagina 5 della Verità, si torna con Giacomo Amadori e Giuseppe China sulla vicenda delle mascherine della regione Lazio. Ne abbiamo parlato molte volte in rassegna stampa, insomma oggi non c'è il tempo di approfondire, però... Il tema è che ci sarebbe una mail che prova che il presidente Zingaretti, mentre era in isolamento, ha coinvolto o ha fatto coinvolgere una società per questa vicenda delle mascherine che era finita negli offshore leaks del 2013 dal Consorzio Internazionale per il Giornalismo Investigativo. È una società domiciliata a Hong Kong, registrata alle isole Cayman e appunto inserita in questo database, una mail che chiama in causa appunto Zingaretti, inviata dall'ex presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. La regione Lombardia, con Fontana che si prepara a dare le indicazioni per la giornata di giovedì, e a quanto pare la direzione è questa: negozi sì, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti no. Trovate tutto sul Corriere della Sera a pagina 10. E infine sul Manifesto, l'apertura l'abbiamo detto sulla vicenda del Friuli Venezia Giulia, questa nave Lazzaretto che è stata bloccata, che doveva arrivare da Napoli ed era la nave che avrebbe dovuto accogliere i pazienti anziani affetti da Covid-19. Ebbene, a quanto pare questa nave pare, sostiene il Manifesto, che alla fine non arriverà mai. Siamo a pagina 6. Federica nell'angolo scarica sui tecnici la nave Lazzaretto. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Perché in Italia non viene promosso la produzione casalinga di mascherine? In Francia c'è un sito ufficiale dove si può scaricare un piano di taglio per poter costruire la propria mascherina lavabile. Noi avevamo bisogno di un altro scienziato che creasse ancora più confusione. Cioè, improvvisato, dai numeri a caso, 50 centesimi, una cifra sparata così, senza nemmeno sentire i produttori, le associazioni, il costo delle materie prime, la distribuzione. L'unica cosa che sanno dire questi del governo è a breve. Sono 2 mesi che dicono a breve si farà questo, a breve si farà quell'altro, non si è ancora fatto niente. E volevo ricordarti, caro Simone, che oggi è mercoledì. E ancora sul decreto non si sa nulla. Ma no, dai, non è vero che non si è fatto niente. E però, caro Paolo Mieli, forse a breve approvano il decreto rilancio, perché pare che stanotte abbiano trovato l'accordo. Buongiorno, innanzitutto. Pare, noi adesso dovremo sempre cominciare i nostri interventi dicendo pare, sembra, può essere. Si sussurra, certo, dicunt. Prego, prego. Certo che il decreto aprile, che oggi 13 maggio non è stato ancora varato, nonostante sia stato annunciato, quello sì, in aprile, da performance del Presidente del Consiglio in televisione, dicendo domani faremo, eccoci, siamo pronti. Questo genera sconcerto, anche perché ormai è chiaro che non è più questione dell'opposizione che mette i bersani tra le ruote o i renziani, no, qui adesso lo scontro è sui migranti al momento, sulla regolarizzazione dei migranti in queste ore, e poi appena avremo fatto quello sui migranti ci sarà di nuovo, ritornerà quello sul MES, se accettare o no quei 36 miliardi, certo. E quindi la tensione passa fra i 5 Stelle, che sono insomma in un certo marasma, e il resto del governo, che ha delle idee insomma elementari ma chiare. Quindi insomma, questo ci fa molto mal sperare, però nel frattempo Conte ha, ieri qualcosa l'ha fatta, ha nominato queste famose donne che aveva promesso una decina di giorni fa nelle task force, e insomma devo dire che i 11 quotidiani, tutti, oggi non parlerò quasi di quotidiani di opposizione, ma quelli del governo sono tutti molto perplessi, quotidiani non ostili al governo, mettiamola così, sono molto perplessi, non ostili al governo è certo il Fatto Quotidiano, che ha un titolo: rilancio fermo, ora piantatela, sì. Prima pagina, questo vuol dire decreto in pan, ritardi, bilancio fermo, ora piantatela. Se questo è il Fatto Quotidiano, immagino tutti gli altri, però diciamo, tanto per partiamo da Vita Scorsa, Arcuri, dai, il primo nominato da Vita Scorsa, è un guai terribile, sì. Perché le mascherine è davvero un caos inenarrabile, scontri, non spuntano le mascherine. Sai da dove comincerei se fossi un lettore? Da un articolo che sta a pagina 14 di Repubblica, sì. Che recita così: Wuhan, la battaglia dei 10 giorni. Wuhan, dove tutto è iniziato, si sono avuti nuovi casi, e dice che subito adesso faranno test a 11 milioni di abitanti. Ecco cosa stanno facendo a Wuhan: un test adesso, domani, a 11 milioni di abitanti. Noi qui stiamo ancora alle prese con le mascherine e le con donne. I reagenti, con i reagenti, caro Paolo, che appunto finalmente pare che ci siamo decisi ad ordinarli o a cercarli o a indire una gara per trovare i reagenti. Sì, ma siccome quello che succede in Asia, trovate in Asia sempre in quella stessa pagina di Repubblica, si vede che la riapertura di un locale notturno della comunità LGBT a Seul ha causato una valanga di contagi, per cui hanno dovuto correre ai ripari. Se noi guardiamo all'Asia, non sarà facile. Taiwan, Seul e la Cina ci dicono che questa seconda fase è una fase, non è che si ricomincia in modo anarchico come in Italia, però stando alle task force, ti leggo da un articolo, sì, di Stefano Folli su Repubblica, dice: c'è poi il caso di Vittorio Colao, il più noto dei manager chiamati a offrire il loro contributo ed esperienza per definire tempi e modi della ripartenza. Ieri il suo nome è tornato a circolare perché il Presidente del Consiglio, incalzato da Laura Boslini e Emma Bonino, ha deciso di arricchire con 5 donne i componenti del comitato guidato dall'ex amministratore della Vodafone. È una mossa a effetto e poteva essere decisa prima, e che cambia poco nella sostanza. Infatti la vera domanda è: a cosa serve quel comitato, il più importante dei 15 o 16 che sono stati messi in piedi? Nessuno sa esattamente quali siano i suoi compiti o a che punto sia nell'attuazione del suo programma, se ne esiste uno. Sembra quasi che Conte, dopo averlo insediato, abbia preferito lasciarlo nell'ombra. Forse nel caso lo userà come capo espiatorio. Certo, a distanza di qualche settimana risulta ancora più evidente che Colao, per sopravvivere e avere un ruolo, avrebbe dovuto chiedere un profilo politico, ministro, sì, senza portafoglio, anche sotto segretario a Palazzo Chigi. Sì. Sarebbe stato impossibile per chiunque spingere nelle nebbie. Sì. Sono in disaccordo con Folli: anche se avesse chiesto questo, Colao si sarebbe trovato, sì, ugualmente nelle nebbie, però mi fa, sì, piacere il tono sarcastico, sì, di Folli su questa vicenda. La presidente, sì, del Senato a litigare con la, sì, Germania, hai visto? Sì. A litigare, sì, l'ho letto su Repubblica, pagina 7, articolo di Tano Massaboni, sempre ben informata. Sabato, un discorso di un minuto alla presidente del Senato, ha lanciato un allarme, dice: qui, parlando dell'Europa, Berlino discute, l'Europa brucia. Questo discorso ha fatto irritare la Germania. Era una citazione da Tito Livio: mentre Roma discute, perché, sì, Roma è, Sagunto viene espugnata. E con questa semplice citazione di Tito Livio ha fatto arrabbiare i tedeschi. Nello stesso tempo però la Casellati si è divertita, perché ieri ha ricevuto Mogol e Ospetek, l'articolo sì. sul Corriere della Sera. Ricordate tutti che tanto poco tempo fa aveva ricevuto Amedeo Minghi e aveva ballato con il piedino muovendolo, e insomma la Casellati ci mette del suo a far tremare il mondo, almeno il mondo sì. politico italiano. Allora, ma insomma, volete un'informazione rigorosa, seria su queste cose? Manuela Perrone, Lina Palmerini, due articoli diversi sul Sole 24 Ore, spiegano bene perché è paralizzata, perché è stata paralizzata fra Movimento 5 Stelle e il resto della sì. città. Dove si trovano? Sono le 24 ore sul quale si trovano anche le tracce di questo scontro tra il governo e i sindaci, che è un altro fronte che si apre. Parlano di un rischio di un'emergenza rifiuti, un rischio emergenza rifiuti con il blocco della TARI. Ne parlano i sindaci e le aziende che se ne occupano. Mentre invece un po' su tutti i giornali si trova anche il tema, e insomma ve lo ricordo perché poi andiamo in pausa, il tema dei balneari da una parte e dei ristoratori dall'altra, insomma le regole del comitato tecnico scientifico che fanno un po' imbestialire tutti e fanno temere che non si possa riaprire. Sì, è chiaro, sarebbe difficile per chiunque mettere delle regole per bar, le distanze, dove fare il bagno. Sì. Però l'impressione è che le lentezze non siano riconducibili alla difficoltà di stabilire che distanza ci deve essere fra un ombrellone e l'altro, bensì a problemi di composizione politica. È nel manico qui il difetto. Sì, certo. Il governo, nato alla fine di agosto, non solo non si è fuso in questi mesi, ma anzi ha messo in campo delle divaricazioni sempre maggiori, e avere un comandante in capo, Conte, che deve guidare un'operazione così complicata, e questo glielo riconosciamo, con marasma dietro le spalle, beh, questa è un'impresa improba. Sì. Comunque durerà, non vuol dire che debba sì. cadere, però, non si faranno elezioni anticipate, però certo è veramente molto confuso il tutto. Allora, qualche buona notizia oggi dal Sole 24 Ore, ne parliamo dopo il traffico. Allora, caro Paolo Mieli, innanzitutto abbiamo un investimento di 1 miliardo di euro in arrivo nel nostro paese, arriva da un'azienda cinese che arriva nella Motor Valley Emiliana, che è il principale costruttore automobilistico cinese, ha scelto l'Italia per il suo primo sbarco all'estero. Molto abbiamo parlato dei rapporti tra Italia e Cina in queste settimane. Beh, questa è finalmente una notizia positiva che viene dalla Cina, pagina 11 del Sole 24 Ore, articolo di Stefano Carrer. Carrer. Sì, i cinesi di FOA, scritto FAW, investono 1 miliardo in Emilia. Il progetto per il primo sbarco all'estero, questa FOA è una cosa molto importante, fu costruita in Cina fondata nel 1953 con il supporto dei russi della ZIL Changkun in Manciuria per produrre il camion. Poi però dal 58 è diventata l'industria che faceva le auto di lusso per Mao Zedong, e a poco è diventata una fabbrica di una super sportiva ibrida. L'ultimo sono di Francoforte, il debutto della Honky S9, testimonianza della decisione con cui il gruppo FOA intende rilanciare lo storico marchio. C'è anche una foto, si vedono di un prototipo, però non è solo cinesi che vengono in Italia, perché anche italiani che vanno in Spagna, no? La Trenitalia. Articolo di Marco Morino, sempre sul Sole 24 Ore, pagina 15, Trenitalia sbarca in Spagna con i treni ad alta velocità, servizi al via da gennaio 2022, quindi non fatevi impressione, adesso i treni, anche di Trenitalia, sono lenti perché non si sono ancora rimessi a totale regime. Per fare Roma-Milano ci vogliono 5 ore, si fanno un sacco di soste, però e la professionalità di Trenitalia è riconosciuta ormai in tutta Europa quantomeno, perché non è la prima impresa questa di Trenitalia, perché Trenitalia ha già fatto in Grecia nel 2017, ha acquisito la piena proprietà di Trainose, la principale operatore ferroviario in Grecia, poi in Gran Bretagna, dove è presente con una società sempre controllata da Trenitalia, okay. In Germania, dove nel 2011 il gruppo ha acquistato Netintera Deutschland, in Francia, insomma, devo dire che il modello dell'alta velocità italiana sembrava fossimo arrivati secondi, terzi dopo la Francia, e invece siamo diventati un gruppo leader. Sì. Poi, se vuoi sapere di altri che se la spassano durante la crisi, vanno c'è bene. Netflix, no? C'è Netflix. Il miracolo di Netflix. Beh, miracolo, stiamo tutti a casa, Paolo, cioè più che miracolo, diciamo, una conseguenza quasi obbligata. Però questa è anche l'intuizione di una grande, perché sai, Netflix è nato 5 anni fa, ha avuto 5 anni di perdite multimilionarie, ma ha puntato su un prodotto che prima o poi, adesso non poteva mettere nel conto la crisi, poteva farcelo. E quest'anno, dopo questi 5 anni di perdite multimilionarie, ora 700 milioni di utile, prima aveva avuto 10 miliardi di buco, e soprattutto la grande notizia per il mercato televisivo italiano è che ha scippato alla Rai il sequel dell'Amica Geniale. L'Amica Geniale è stato un prodotto, le prime 2 serie hanno sbancato come risultato, e può, adesso non dico che sarà sicuro, può accadere quello che accadde una 30 anni fa con Dallas, la prima, i più adulti se lo ricorderanno, era una serie televisiva che iniziò sulla Rai, poi se la catturò Mediaset, allora nei panni di Netflix c'era Mediaset, ebbe un successo strepitoso, cioè alla Rai cominciano e poi se la fanno soffiare, non è che se la fanno soffiare perché sono stupidi, perché ti ripeto, l'Amica Geniale ha fatto degli ascolti clamorosi, ma avendo bisogno di soldi si riescono a mettere in campo la terza, la quarta serie, e saranno serie di sicuro successo. Peccato, sì. Dire peccato. Paolo, è scomparso un editore, è scomparsa una persona nei giorni scorsi che, insomma, per certi versi ha segnato un pezzo della storia dell'editoria italiana. Certo, dell'editoria stiamo parlando di Giulio Savelli, che era un editore, anche un fine intellettuale, allievo e amico di un grandissimo filosofo, Lucio Colletti, ebbe un successo clamoroso con 2 libri a metà degli anni 70. Uno, La strage di Stato, quello scritto dopo la strage di Piazza Fontana, in cui ipotizzava, anzi più che ipotizzare, indicava lo Stato e gli apparati segreti dello Stato come responsabili di quelle altre stragi. E poi, in maniera più giocosa, con Porci con le ali, il primo libro di Lidia Ravera, allora 18enne, e Marco Lombardo Radice, poi scomparso, un libro che non si firmavano neanche col loro nome, si firmavano come Rocco e Antonia, i personaggi principali del libro, era un diario di liceale alle prese con la politica, il sesso, l'amicizia, che ebbe anche quello un successo molto molto importante, però poi pubblicarono articoli, una strana casa editrice, sì. Il primo libro di Alberto Sorrosa, scrittori a popolo, e Savelli era un editore di estrema sinistra, una sua rivista La Sinistra fu i racconti di Fanno Mirella Serri sulla Stampa, Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, si era però spostato su sponde liberal-democratici, come del resto il suo maestro Lucio Colletti, sì. Che era stato anche parlamentare di Berlusconi, e aveva fatto anche nuove riviste, ma nel giorno della sua scomparsa va celebrata adeguatamente. È stato un nome che ha contato molto per la cultura italiana, per la cultura giovanile italiana dei suoi tempi. Grazie anche per oggi, Paolo Mieli, ti ritroviamo ovviamente venerdì. Paolo, buona giornata. Ci sentiamo. Grazie anche a voi. Ci sentiamo venerdì. Noi chiudiamo adesso, ci ritroviamo tra un attimo dopo GR24 con Maria Latella. Parleremo innanzitutto del tema della ristorazione, questi 4 metri quadri a cliente, che cosa si sta approntando, ne parleremo con uno chef molto noto che è anche componente di una commissione che si occupa di tutto questo. E poi andremo a parlare di scuola, perché insomma sapete, un po' una nostra fissa, ogni tanto ci ritorniamo, la scuola, i diritti dei bambini, anche il diritto alla socialità e questa pervicacia, vogliamo chiamarla così un po' in maniera cattiva, a mantenere le scuole chiuse. A tra poco.